cholera, patrzą mądre z cholera. Quadolari, volte esplodera, quadolari, volte esplodera. Quattro ore non ti salverà, buona vita, ore non ti salverà, la tua vita mare non ti salverà, il tuo cellulare non ti salverà, il tuo sport non ti salverà, il tuo laptop non ti salverà, la tua bandiera non ti salverà, la tua carriera non ti salverà, il tuo abito non ti salverà, il tuo ombrismo non ti salverà, la tua violenza non ti salverà, la tua indifferenza non ti salverà, quando il mondo esploderà, quando il mondo esploderà, quando la rivolta esploderà, quando la rivolta esploderà. Quando la I'm gonna go to the hospital.